Da poco passate le ore 21.30, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, come ogni lunedì che si rispetti. Ecco qua lo spazio di Disorder. Come ogni lunedì sera, ormai dal lontano 2002, e il mercoledì invece con prove tecniche di trasmissione, spazio insistente invece dall'ancora più lontano 1992. Contenitore di gothic, neofolk, wave e molta molta elettronica. Saluto Nicola Locci e Maya in Sardegna, Roberto Faloci di Phantom Ship. Francesco a Bergamo, Giovanni Lisi di Cordes Cinti Serpente, Enrico Marcheggiani di Blocco Nero, Mariano Virdi a Berlino, Ant Christ di Omicidio, Wurnus Island, grosse realtà industrial piemontese, Cecilia Miradoli di Pindar, Death De Carlo from Boston. Il medico della peste. E poi Isa e Tual. Andremo avanti fino alle ore 23 circa. Intanto vado anche ad abbracciare idealmente Tabula Rasa, che ci sta ascoltando dalle parti di Cortina d'Ampezzo. E questa sera si va a concludere il nostro viaggio attraverso l'ultimo lavoro di Killian Camera. Un lavoro fatto in 3 CD, si chiama Cold Pills. Termineremo qua, ma poi quello dopo probabilmente metteremo anche una traccia molto particolare del terzo CD, più adatta a quel tipo di spazio, mentre questa sera ci andremo a gustare la conclusiva Cutting Days Off, Killian Camera da Cold Pills. Finiva in questo modo, dunque, l'ultimo lavoro, l'ultima fatica di Killian Camara. Da nome Cold Pills, tra parentesi Scarlet Gate of Toxic Daybreak, un'opera importante, vasta, come ho detto un triplo CD, dove ci sono riassunti i vari stili che hanno contraddistinto i Killian Camara nella loro lunga carriera, iniziata a cavallo degli anni 70 e 80 addirittura, quindi Dark Wave, Synth Wave, IBM, e in questa circostanza anche musica concreta e approcci sperimentali ed industrial. Naturalmente girano intorno al nucleo principale di Angelo Bergamini e Elena Alice Fossi, la voce. Veniamo adesso qui più vicino, veniamo a Palestrina, Palestrina in provincia di Roma per chi non è di queste parti, e ha dato i natali a un interessantissimo progetto tra Dark Wave, Synth Wave, IBM anche loro, e si chiamano Blocco 24, visti proprio sabato scorso dal vivo qui a Roma in una ottima performance. Gruppo che ha un passato non indifferente, non ultimi anche gli Wendy, che sono stati poi ospiti per Radio Onda Rossa proprio lo scorso fine settimana, in sostegno appunto di questa emittente. Un quintetto capitanato da Karl Marz, che vado anche a salutare, e che ha esordito sulla lunga distanza qualche mese fa. Quindi album omonimo, Blocco 24, da quale ci andiamo ad ascoltare le ultime tre tracce: Freddo, Sintesi e Sono Ancora Vivo. Gioia. base al valore delle azioni, ma del potere che suscita tra la gente. Ed è così che passa il tempo, accumulando denaro e solitudini, le guerre, la mortificazione degli esseri più deboli. Il fallimento di intere generazioni non lo riguarda. Cercando invano nascondigli nella storia. Dunque, anche per questa sera abbiamo dedicato parecchi minuti a questi Blocco 24, questa nuova avventura proveniente da Palestrina qui nell'entroterra romano. La bellezza è solo uno strumento effimero. La Dark Wave che mi ha fatto anche ritornare in mente i primissimi Litfiba, il tutto però arricchito e sostenuta da una ficcante base elettronica, il synth-pop, la synth-wave, anche accenni di IBM, rendono Blocco 24 una proposta interessante, anche un po' diversa rispetto al... a un certo modo di suonare e intendere questo tipo di materia. Da mettere in risalto, da mettere l'accento sui testi intensi e cantati in italiano, il che rende per certi aspetti ancora più difficile e ammirevole il lavoro di questo quintetto. Un quintetto, come ho già detto, con Carlo voce synth, Luca e Andrea alla chitarra, Stefano al basso e Roberto alla batteria. Purtroppo non conosco i cognomi, ma ciò che è importante è che seguiremo le loro mosse, prossime avventure, speriamo, soprattutto prossime. Blocco 24 che salutiamo, saluto Carlo e noi andiamo avanti per questa parte di Disorder che continua in Italia e lo faremo per gran parte del programma. Abbiamo iniziato con Killian Camera, Blocco 24, che uniscono egregiamente atmosfere oscure con elettronica in diversa però concezione. Discorso estendibile in parte anche i prossimi, questo duo dal nome Derma, più spostato verso l'EBM e soprattutto l'elettro. Secondo lavoro per loro dal nome Signore e Signori Buonanotte, esce per la Svizzera Lucesia, etichetta di Sasha Rovelli e The Boys da Basic, etichetta di Bellinzona. È un progetto capitanato e fondato da Massimo Magrini, conosciuto soprattutto come Bud Sector, quindi maestro dell'ambient, e anche Riccardo Bianchi che ci dona la sua voce molto interessante. Ci ascoltiamo. Gesti e d'Italia.